Zappa, ciao Antenna 1, comunque questo qui non è Antenna 1 originale. Lo so, è Antenna 1, a riposo. Attenzione da non confondere con K2 e Antenna 1, cambio. No, noi lo confondiamo, non ci preoccupare Giuseppe. Già mi ha capito già nel doppio rum e qualche altro vecchio della frequenza che stavo dicendo io. Mario, ci sono arrivato anch'io, tranquillo. K, no, perché Antenna 1 era il mio vicino di casa. Sì, come non siete più, Comunque vi saluto anche io, sono K2, buonasera a tutti. Ciao K2, ben trovato, qui è Giuseppe Tornado. Ma non ti ho risposto più, Buonasera, comunque, l'ho sentito anche a te. Però il discorso che abbiamo fatto stasera non è valso a niente, Giuseppe. Spiegaglielo tu, che me ne scappa la risa a me. Sì, perché qui ci stiamo sovramodulando uno con l'altro. Uno, diciamo che il dito più veloce della frequenza. E niente, con Natalino ci sono state dettate delle regole ben precise di quando si modulava in una certa maniera. Dai, avanti Natalino, lascio il mic a te che sei molto più esperto. Vai. Ce ne sono qua di esperti, io non voglio mettermi in mezzo, quando vedo così non c'entro e basta, vabbè rimango in QRX e mi prendete il QSO, da, se vi piace sovramodularvi, ciao a tutti da QRX per me. Giuseppe, guarda, se ti riferisci a Antenna 1 non era lui perché c'ero io qua con lui, forse è quello di ieri che ho sentito le parole che ha avuto, non so chi era. No, negativo, K2, non stiamo parlando di voi, stiamo parlando di noi. Ah, ok, positivo. Non preoccuparti, dai, adesso facciamo girare un attimino bene il QRT, dai, avanti Pierpaolo, dai, le mic a te. Pierpaolo non risponde, avanti Gianni, a te, dai. Ehi, Natalino, rientra in ruota, io fai da bravo, non fare per maloso. E adesso vediamo di rimettere tutto in sesto, vediamo un pochettino se riusciamo a riordinare il credito. Ci mettiamo dei buoni propositi e cerchiamo di mantenerli, no? Avanti Giuseppe, di nuovo, fai girare tu, adesso sei sul capo rotta e facciamolo, fai girare tu. Sì, grazie Gianni, ma è giusto che sia così anche, perché come abbiamo discusso qualche settimana fa, 3 secondi per, dico 3 secondi di bianco, giusto per riprendere un break, lasciare lo spazio a delle persone che vogliono intervenire, dico 3 secondi sono un respiro. Niente, dai, diciamo, anche perché facendo in questa maniera qui tutti possono parlare e secondo me ci capiamo anche meglio, dai, perché poco fa abbiamo fatto diversi giri con Natalino, c'era Mario, c'era Paichetto, c'eri anche tu Gianni, e meno male il discorso l'abbiamo aperto, l'abbiamo affrontato bene senza sovramodularci uno con l'altro, perché poi ne viene fuori una frittata, dai. E niente, io adesso rilancio il mic a Natalino, dai, avanti Natalino insieme a noi. Vabbè, non riprende Natalino, riprendo io. Vabbè, diciamo che tutti devono avere dei buoni propositi, a me sta anche bene, non c'è problema, sta bene, quello che ha detto ha avuto dei buoni propositi Natalino, ma lo sanno tutti che lo seguono, perché ci sono sempre quelli che entrano senza break, l'ho detto anche stasera, ci sono quelli che sovramodulano, eccetera eccetera, ci sono sempre stati, sicché uno lo fa tranquillo e non lo fa apposta, è brutto quando lo fa apposta per far vedere che è più forte dell'altro. Ma figurati Gianni, io dico quando siamo nella nostra ruota, ad esempio, può non mi è capitato stasera con antenna 1, non me ne voglia se sei in accordo. Sei in accordo, antenna? Sì, grave, fa, come dici, break, dicevo, c'ho la pace. E tranquillo, non c'è problema. Tu hai chiesto il break un paio di volte e ti abbiamo messo un'aspettativa, ma non per cattiva volontà, attenzione. È giusto che avevamo un collega in barra pesante in direzione Olbia e abbiamo preferito dare un attimino la precedenza a lui piuttosto che a te che eri in stazione fisse, capito? Perché giustamente il collega che avevamo, che con cui stavamo modulando, da un momento all'altro lo stavamo perdendo. Ed è, non è stato fatto per malizia, attenzione, antenna 1 o K2, parlo con tutte e due, è stato giusto per una questione di precedenza, dico, poteva anche succedere a me in quel momento che io chiedessi il break, ti mettono un attimino in parcheggio, sì ok, ho registrato il break, attendi un attimo, ma l'attimo può essere due secondi come può essere un minuto, ma nessuno, attenzione, nella ruota se la deve prendere a male, anche perché se si gira in una certa maniera, tutti ci capiamo bene, possiamo fare un bel discorso, ci si può paragonare, ci si può confrontare tutti quanti, senza nessun problema, dai, e non per queste piccole fesserie non c'è manco bisogno di prendersela, dai, dai, dai. Oh Gianni, rilasciate il mic e vai tu avanti, dai, cambio. Dai, facciamo bene avanti a Pierpaolo, che l'avevo chiamato poco fa, non c'era, vediamo un po' se è tornato, poi c'è anche Antonio, insomma facciamo girare anche per l'altro, altro Pierpaolo, avanti. Antonio, via, prendi, e poi c'è anche Mario, prova a vedere se c'è Pomponi, insomma ci sono un po' di persone in parcheggio. No, ho già sentito il discorso, lo stavo aspettando, stavo... mi rilanciavate, dai. No, non ci sono problemi, no, io quelle volte ci sono troppe sovramodulazioni, ascolto e basta. Sono lì a rompermi la scatola, hai capito? Perché grazie, ti ringrazio dei buoni consigli, ricambi altrettanto e basta, altro non dico. Importante partecipare, ecco quello è importante, partecipare, avanti Mario. Scappa, ma qualcuno se la piglia, qualcuno la molla, qualcuno la riprende, e la frequenza ormai la conosciamo com'è, e purtroppo ogni tanto, non dico che è sempre, ma ogni tanto capita che uno sovramodula l'altro, perché vedi, adesso anche antenna 1 e coso, mica hanno detto riprendi tu, riprendi quello, riprendi quell'altro, e allora uno nell'incertezza molte volte che cosa succede? Che non sai mai chi arriva prima, e poi magari si chiaccia tutti insieme per riprendere. Sono cose che purtroppo capitano, perché la sera non ce l'ha nessuno, capito? E boom, io non mi rabbiglio mai, io ho papigliammi, e ci sono i terrori, e sono tutte, buonanotte al Sicchio. È infatti, bisogna di là, bisogna di là, bisogna stare tranquilli. Che fatto? Pregatene tu, stiamo modulando e basta, e si può parlare di tutto. Quindi dov'è il discorso? Non lo so, e tu ora non lo so. Senti, io disturbato troppo, vabbè, buona, sono per qui sto fatto. No, ma stiamo dicendo a te, non lo fai intendere antenna. Stiamo parlando del discorso che c'è stato stasera. Sì, Natalino che proponeva praticamente un caporuota, che sarebbe quella persona che rilancia il microfono a uno alle persone che ci sono in ruota, tutto lì, di modo che ci fosse dell'ordine, che uno non parlasse sull'altro, eccetera, eccetera. Questo qui è il ripilogo. Ma è un break. Giuseppe, non lo so, vabbè, da, niente, con il piano è possibile sentirlo, perché non lo sento, ti mando tanti saluti, da qui, non c'è niente da, non credo, vabbè, se ci sono troppo, ma... Dai Antenna 1, non preoccuparti, almeno tu adesso in questo passaggio hai detto dormo credo il microfono a Giuseppe e si dovrebbe fare così perché in genere quando io adesso sto per terminare che ne so il mio discorso, chiamiamolo così, che ne so, io dico sì buonasera a tutti, ok, passo il mic oppure avanti Mario, dai vai. Ma lui è nuovo e molte cose ancora non le capisce, capito? Perché da come parla me ne accorgo che si sta un pochettino increpando. Però Natalino si è arrivato perché dice ci sono le sovramodulazioni, così non mi va, se mi piace, se non mi piace. Però si è sempre risaputo che quando entra uno nuovo, quando c'è un qualcosa o quando qualcuno chiude il discorso e non dice riprendi Andrea, riprendi Giovanni, riprendi quello, allora nell'incertezza che cosa succede? Che al canale nessuno parla, poi quando c'è la portata magari parlano in due. E Natalino, boh, sembra che se la sia presa, no, non ho capito manco il perché, boh, vabbè, no, io, a me non me ne frega nulla, capito, però Natalino non sa davvero pigliare così, cioè deve anche lui cercare di capire che molte volte uno finisce di parlare e non rilancia nessuno, capito, e poi nell'incertezza tutti quanti, o perlomeno magari capitano sempre due che vanno a parlare assieme, ma non è che lo fanno apposta per sovramodularsi, perché se uno vuole sovramodulare, piglia, se mette una stufa non fa della vita più a nessuno, cioè in pratica è quello lì, così che siamo tutti gli altri tranquilli, siamo tutti gli altri così, se succede qualche piccolo inconveniente uno non è che si deve arrivare come ha fatto Natalino. Vabbè, riprenditela di più lungo. Vabbè, dai. Ci vuole educazione a tutte le parti, se uno si mette in testa di comportarsi in una certa maniera ci riesce male. Diciamo che chi non si comporta così viene magari non ripreso ma consigliato almeno di comportarsi in questa maniera, almeno in questo canale ci comportiamo così li diciamo, quando entrano le maldestramente, tutto lì. Avanti Giuseppe. Tappa Gianni, al 100%, dai. Innanzitutto, prima, diciamo l'educazione, quella la cosa basilare. Però non prendiamola troppo sul serio la cosa, perché andiamo avanti diciamo come bambini che gli stai insegnando a camminare, un passo per volta e si sistema tutto, dai, anche perché io di canali ne giro parecchi per il lavoro che faccio e vi posso dire che io quando rientro a casa il 21 è il mio canale preferito e niente, deve essere così perché se riusciamo a fare la ruota a livello familiare, guardate, non c'è cosa più bella che possa esistere al mondo. E detto questo passo il mic all'amico Pierpaolo. Avanti Pierpaolo. Pierpaolo non risponde, avanti Antonio. Vabbè, è così, molte volte succede che c'è qualcuno sovramodula e qua. Ma alla fine non è successo niente, pazienza. Dai, non sono questi i malanni di questo mondo, dai. E Gianni, avanti. Vai a cercare un cielo, così in chiesa. Dritto, un cielo in chiesa. Chi è che sta dando colpi di portante? Non lo so, no. sono zitto io. Vai, entra su antenna 1, vai, vai, avanti, avanti antenna 1. Sto ascoltando tutto, va. Ma io non capisco ancora questo discorso, qui passo, là non passo, sono sopra, come si dice, modulazione, e ci posso mai, e neanche tu, non è colpa nostra, purtroppo è così, l'importante è capare. Va bene, le parli di fare, ti danno le Cagliari per cortesia, basta, tutto. Dai, te lo spiego io in un attimo, antenna 1, se vuoi. Mi accontento. Ok, allora, ascolta bene quello che sta dicendo zio Giuseppe, ok? Allora, quando si entra in modulazione, che cosa succede? Per non stare uno sull'altro, aspetta, quando vieni chiamato, oppure se stai parlando tu, quando termini il discorso, puoi dire avanti, che ne so, Giuseppe, avanti Mario, avanti Tonino, avanti Luca e avanti Mario, ok? Per non fare lì a chi è il più veloce, schiacciando la portante, stai seguendo bene? È tutto qui il discorso, non c'è né da tirarsi e né da fare altro, perché ci si sta organizzando un attimino per riuscire ad affrontare questa ora o queste due ore di confronto che facciamo davanti a un microfono, però sentendo la nostra voce, tutti quanti assieme nella maniera più pacata possibile. È tutto questo che dico io. E con questo adesso facciamo entrare avanti Mario, ok? Senti bene quello che ho detto, è antenna 1. Avanti il mic a Mario, cambio. Il discorso è semplice, cioè per chi è semplice? Per quelli che ci sono già un po' di tempo, ma quando entra uno nuovo, a quando a farglielo capire, a quando a spiegargli determinate cose, o a quando lui si decide di fare ascolto e vedere come funziona una ruota, stiamo parlando di ruota dove ci sono o più persone che se ne trovano dopo il lavoro per scambiare quattro chiacchiere, capito? E così che sino a quando quello non arriva, diciamo che bisogna pigliare quello che esce, cioè non è che puoi pretendere che uno piglia una radio oggi in mano e dopodomani sa già tutto. Non si può pretendere, così che si deve anche abituare, si deve fare, capito? E poi mano a mano anche lui si adegua e il discorso viene fatto in tanti, però ad uno, perché di quella maniera là uno succede che parla sopra l'altro e che cosa fa? Non fa niente. Perché la ruota rimane in bianco, poi c'è quello che dice non ha ripreso, per dire Giuseppe, riprendo io, boom. Però in quel momento lì, quando sta riprendendo lui, magari ce n'è anche un altro dall'altra parte che anche lui ha avuto magari la stessa idea e si schiaccia la portante assieme, ma non per quello che succede niente, perlomeno io non ci vado, perché anche a me molte volte succede che viene rilanciato uno, quello che ha rilanciato non lo sente, allora piglia e rilancia un altro, e invece molte volte succede che nessuno ripiglia e si schiaccia assieme o si parla assieme, oppure c'è quello che non ti sente e ti parla sopra perché magari c'è una lontananza che arriva piccolissimo e magari in macchina non lo sente e quello là va a parlarsi sopra. Sono cose che succedono, ci vorrebbe solamente un pochettino di attenzione e un pochettino di tranquillità, no? intanto il microfono da mano non ti scappa. Quello che schiacciarlo prima la macchina, schiacciarlo dopo non succede nulla. Ma va bene, io la penso così, poi sento un cambio e sento Varretti. Riprendi Antonio. Fai così Mario, là. Purtroppo succede molte volte, succede anche a me qualche volta, non lo devo negare, succede anche a me che magari riprendo nello stesso tempo o cosa ne so, o faccio qualche altra cosa, però non è che lo faccio per male, lo faccio perché molte volte che riprende quello là subito, cosa ne so, succede, non niente di particolare, dai. Avanti ti deve riprendere, dai, vai tu Pierpao o Gianni, e vedete un pochino voi, dai, dai. Gianni ci sei, capito che c'è, è così, sai quante volte succede a me pure, ma non che lo voto bammare, no, lo voto a chi dice, no, e non mi rendo conto, con belle voce, ma l'ammetto, non vedo volte, non ci sto attento, non ci sto. Ah, vai tranquillo, vai, non sono questi i malanni di questo mondo. L'importante è che si stia bene assieme, dai, dai, dai. E poi quando abbiamo la possibilità di farci una chiacchierata bene tutti quanti assieme, ti ripeto, non sono questi i problemi. E come giustamente stavo parlando questa sera con Natalino, i 3 secondi che si lasciano di tempo quando io lascio la portante, non entra nessuno, uno può entrare tranquillamente, mi hai capito Antonio, senza nessun problema. Però, come dice giustamente Natalino, se si vuole tenere un attimino d'ordine, io adesso che sto lasciando la portante, che devo fare? Faccio come faccio adesso, no? Avanti il Mike e a Gianni. Gianni, passati i 3 secondi, non mi risponde. Avanti K2 se ci sei. Sì, sono qua. Non so se hai sentito, ma forse ti hanno sovramodulato anche a te, può fare. È positivo K2, ma non c'è problema, sono cose che succedono, cioè io dico questo, cade il cavallo che ha 4 zampe non possiamo sbagliare noi in una fesseria, ma pian pianino le cose si ottimizzano, riusciamo a modulare bene tutti quanti in questa maniera, perché noi stiamo cercando di organizzarci in questa maniera, per poter parlare tutti, non solo i più forti in uscita, hai capito? Però dare spazio a tutti quanti nella ruota e avanti K2. Guarda Giuseppe, ti do pienamente ragione, però anche Natalino non sbaglia, perché molte volte non richiamando il prossimo Mike, non si sa chi deve entrare, può capitare che schiaccio io e magari schiacci tu per entrare e ci sovramoduliamo, succede casino. È positivo, dai, ti ripeto, sbagliare capita a tutti, ma non sono questi i problemi, perché riuscendo oggi a fare questo discorso, domani lo miglioriamo di un cicinino, dopodomani lo miglioriamo di un altro appena appena, fin quando magari poi riusciamo ad arrivare a riuscire a capirci tutti quanti, dai, ma non metterti un problema, dai, riprendi tu K2 e rilancia. Niente Gianni, non c'è, volevo dirti che ho fatto quel punto che mi ha detto lui della concessione per la mia qui e adesso mi metto una cosa di e magari se non mi anche scontare perché fa il tempo che sono molto male, niente, avanti, non so, continua anche Giuseppe si chiama chi pure perché non lo so. Va benissimo, dai, K2, quando poi decidi di fare il tutto quanto, niente, se vuoi contattaci tranquillamente perché qui siamo tutti per uno, cioè uno per tutti e tutti per uno senza nessun problema, dai, dai, dai. E avanti, vediamo un po' se Palino e dei nostri. E il Mike è appena Palino e è rientrato, se mi senti. Niente da fare, 3 secondi passati in bianco e un po' mi spiace perché non, è, non bisogna prendersela così, mannaggia di pescetti. E Mario, vedi un po' se, se puoi riprendere tu, dai, vai. Vedi come si è preso, sembra che, no, che quando succede qualche sovramodulazione sembra che c'è della cola di paglia, boh. Io molte volte non lo capisco. Cioè, il maiale è umano, quindi non è che sia, non siamo tutti perfetti, no. Molte volte uno, come ti ha detto poco fa, della due, uno non rilancia nessuno, smette di parlare e aspetta che ripigliano gli altri, però gli altri non sono manco i dovini, no, quando sono nella ruota. Allora, molte volte succede che due schiacciano la portante assieme, due, tre, dipende. Non è che quelli lì sono sovramodulazioni, sono così incidenti di percorso perché non è stato rilanciato nessuno e allora magari due, tre più utenti schiacciano la portante e succede, diciamo così, un ciabotto, perché poi alla fin fine quello che ha l'ascolto non sente niente, o perlomeno in linea di massima non capisce nulla perché senti blu blu blu blu blu blu blu blu e non capisci nulla, così che sono cose che possono succedere, non è che uno si la deve meglio più del tanto, ma lui ha preferito chiudere perché non lo so, vabbè, a me io ci sono, mi ci rimango sino che ne voglia, quando poi non ne voglia saluto a tutti e me ne vado, giustamente, però non è che me la piglio perché tu Giuseppe hai sovramodulato per dire a Gianni, oppure avete ripreso assieme e io sento questo chiasso e me la devo prendere, per carità, ci mancherebbe altro, non sono quelle le cose che danno fastidio. È capace positivo, dai Antonio, va benissimo così, e stiamo viaggiando tutti sulla stessa lunghezza d'onda, dai, dai, e non c'è problema, si entra qui giusto per farsi una chiacchierata, scaricare un pochino di tensione che si accumula sul lavoro, niente, niente di più, perlomeno questo è il mio personalissimo parere, dai, dai, dai. E però va bene così, dai, dai. Adesso rilanciamo il mic a K2, dai, avanti K2, tutto per te, mai. Sì, grazie. E niente, io direi, secondo me abbiamo capito, cioè io ho capito perfettamente quello che volevi dire. Niente, forse è meglio cambiamo un po' di discorso, non lo so, ma intanto ci sento. Vai tranquillo K2, tutto quello che vuoi, dai, riprenditi il mic e apri tu, dai, non, senza nessun problema, tutto quello che vuoi, noi siamo qui, qui. Qualsiasi discorso e niente, lo possiamo affrontare tranquillamente, dal più serio al più banale, senza metterci nessun problema, anche perché, come ripeto, qui si è tra amici e basta, dai, dai, non c'è bisogno di aggiungere altro, vai tu capata. Ascolta, ma non è che hai qualche antenna usata, non si può buscare da un... Antenna usata tu che cosa hai? Non so, magari avete cambiato antenna, so che tu te l'hai cambiata, però ce l'ho anch'io la sua musica, ma ne voglio di quelle un po' più potenti, magari la metto sul tetto. Guarda, io ce l'avevo sul tetto e copiavo quasi tutti. Ah, così sì, dici che va bene lo stesso, perché mi ha messo un antennino, non so, ma diciamo di quelli per iniziare, non di quelli proprio buoni. Guarda, io da profano ti posso dire che a Fusaro stanno arrivando queste benedette Ringo e so che sono buone come antenne, sempre hanno le 27 MHz e sono richiestissime. Io guarda, ti dico la verità, K2, ho preferito piantare questa perché non potevo più aspettare per obblighi di tecnico, mi hai capito. E non potevo perdere il treno di questo tecnico che mi piazzava l'antenna sul tetto e non ho potuto aspettare la Ringo, ed ecco perché ho piazzato sulla cosa, la Mantova 1. Però ti ripeto, attenzione, della Ringo io ho sentito parlare non bene ma benissimo, e arrivi da lì anche da Piazza Sola, sei molto più in alto di me e dovresti arrivare bene da quasi tutte le parti. E se sto sbagliando qualcosa, abbiamo qui le buon Mario e rilancio il mic a lui. Ma Giuseppe, io la Ringo l'ho conosciuta tanta gente, non c'hai gli stessi guadagni, sì, ti senti con tutto Sassari, però se c'è uno che parla da fuori non c'hai la ricezione che c'ha una Mantova 1 o una Mantova 5, capito? Perché se lui vuole modulare, quindi anche uno stilo di macchina, l'attacca una base magnetica, la mette, non so, attaccata alla ringhiera, se c'è la ringhiera, se no la mette anche sopra un mobile ferro, anche sopra un termosifone, esce lo stesso, perché io quando ero ricoverato mi sono portato una 800 all'ospedale con una base magnetica, la mettevo sopra il termosifone, già avevo il mio baracchino e parlavo con tutto Sassari. Certo, non mi ascoltavano Santiago 9-10, però mi ascoltavano Santiago 3, Santiago 4, però la radio quando è buona e mi sentivano in tutto Sassari, capito? Poi se non mi credi, credi a Pompugno, perché anche Pompugno, quando era ricoverato anche lui, una base magnetica messa sopra il mobiletto, c'aveva il chiemudo in ospedale e lui parlava col chiemudo dall'ospedale. Cioè, se uno vuole chiacchierare, si vuole fare sentire un po' in tutto Sassari, basta anche un'antenna di macchina messa sul terrazzo, non è che ci voglia chissà che cosa, no? Poi certamente, se c'hai una certa passione, se c'hai, diciamo così, delle soddisfazioni da toglierti, che cosa fai? Anziché buttarti i soldi in un antennino da 4 soldi, spendi un po' di più, ti metti una manda e hai risolto tutti i problemi. Anche perché io questa qui adesso ce l'ho 19 anni sopra il tetto ed è ancora lì. Capito, non è che sono andato perché non senta quello a smontare l'antenna per mettermi un'altra, c'è sempre quella lì, perché io sono uno di quelli che dico, se devo spendere 1000 lire, spendo le 1000 lire e non se ne parla più, è inutile che ne spendo 300 adesso, 500 dopo, e poi alla fine devo spendere per forza quelle 1000 lire, perché voglio sentire quello che parla da buono, capito? Tutto lì il discorso, uno se c'ha veramente la passione, un lume per questa radio, cosa fa? Va da Fusaro o da Mercuri o alla GBC, va, si compra una Mantova 1, spende 80 euro, si compareggia l'antenna, un paro, si la piazza e non se ne va lì da più. Beh, K di positivo, oh Mario, non fa manco una grinta il tuo discorso, perché sono al 100% contento. E allo stesso tempo voglio girare un attimino, Mario, se tu me lo consenti, il mic a K2, per sapere che antenna vuole piazzare lui in base alle sue possibilità, se mi permetti. E avanti K2. Ma ti dico che non so, quello che voglio non lo so, perché adesso ho una Storm 27, però adesso avendo fatto questa concessione, avendo la possibilità di metterla qui dentro, non mi intendo, adesso non so un'antenna buona, io ascolto a voi e poi chiederò dove vado a comprarla, non lo so, la migliore, perché voglio uscire, perché voglio uscire, per esempio quando sto modulando, adesso per il Matteo, a Gianni, qualche altro tipo, qualche altro tipo, io non lo sento, neanche qualche altro, neanche lontano, quello lì. K2. E se vuoi un consiglio, prendila dove l'ho presa io. Io ho preso, ti dico la verità, una Mantova 1 e l'ho presa da Grassi qui a Predanieta e ho preso tiranti e quanto c'era, però effettivamente do perfettamente ragione a quello che ha detto poco fa Mario. E la fai una volta solo la spesa e ti devo dire non è questa grande spesa, perché oltretutto a me ha fatto lo sconto, un bellissimo sconto sulla Mantova 1, che ti dico la verità non l'avrei presa manco in internet al prezzo che me l'ha lasciata lui. Ah ok, grazie a Pedalena, me l'ha preparato Gianni, io sono andato una mattina, la verità non l'ho provato, non l'ho proprio provato, ma spiegando io ho capito la strada, diciamo, da Pedalena, dove c'è bandiera gialla, dove ci vanno tutti, può essere per tutti. Negativo. Tu entri, conosci Sassari? Sì, abbastanza. Ok, allora, Città Mercato sai dov'è? Positivo. Ok, vai per Città Mercato. Ok, lasci perdere tutti gli ingressi di Città Mercato, poi arrivi giù in fondo allo stop e devi girare o a destra o a sinistra, giusto? Ok. Ok, e fin qua ci siamo. Tu giri a destra, ok? Arrivi a un certo punto che di fronte a te trovi la Mercedes. Ci siamo? Ok, non arrivo neanche all'ultimo stop dove c'è la rotatoria. Assolutamente no. Guarda che tu devi girare dove c'è la Mercedes e dove c'è tutto quel casino dove hanno aperto quel bar nuovo sulla tua sinistra. Ah, ho capito, sulla sinistra c'è il bar e dall'altra parte sulla destra c'è la via, diciamo, dai. La Mercedes, è positivo. Tu giri lì a destra, ok? Fai tutto quello stradone che rimane in leggera salita. Noterai che sulla tua destra trovi un autolavaggio che hanno aperto, ok? Continua a andare dritto. Arrivi che trovi una curva a sinistra, un curvone anche a sinistra. Prima del curvone metti freccia, guarda che c'è un ponteggio sulla tua destra, guarda quel capannone lì, c'è un ingresso Sky, quelli che fanno cose per la televisione, e a fianco la porta c'è Grandra. Sì, l'ho visto, là sono passato e era chiuso il posto, ho visto quello che c'è delle televisioni, poche capannone sono i capannoni, tutti i banchi rimangono. È positivo, e guarda che di fronte, se tu continui, trovi quel mercatino Portobello. Ok. Appena prima, 10 metri prima, cioè in pratica tu il curvone a sinistra non lo devi fare, perché quando vedi che sta iniziando il curvone tu metti freccia a destra e proteggi la macchina lì. La porta sulla tua destra, entri e scegli tutto quello che vuoi. Attenzione però me, K2, che io gliel'ho portato via una di Mantova e gliene rimangono due di Mantova 1. Sì, tanto questi giorni devo scendere adesso, ho fatto tutto e devo organizzare bene. Niente, ho capito, ho copiato benissimo. Comunque di nuovo, quando stavi parlando, prima di parlare con me, si stavano di nuovo sentendo dei rumori strani, sicuramente qualcuno li ha sentito. Niente, ti rilancio antenna 1 adesso. Io sono ascolto, quindi io sono re. Dimmi, direi, cosa fai stasera? Stasera Nanna fra 10 minuti, perché Giuseppe è tornato, domani mattina alle 5 deve essere operativo. Cambio. Passo, cambio, non so come dire, non mi ricordo il nome. Scusa, sei, ci sono anch'io troppo un po'. Ma vabbè, io sono già tutto, però non arrivo ad avere la TV. Io arrivo la TV. Ok. Avanti a chi è in ascolto. Avanti, avanti. Bene, è l'unica strada guerra, ci risentiamo. Avanti Mario. Ehi, ma non credo che abbia chiuso il K2. Avvero, non credo che abbia chiuso. Avvero, e comunque, no, io ho schiacciato la portante perché volevo dire, per essere più precisi. La via della Seat, penso che c'è la Seat, c'è l'Automax su, dopo Mercuni, dopo la Elco. Mi va avanti, in fondo, prima di fare la curva, c'è una piccola piazzuola fatta in cemento, si proteggia lì ed è arrivato. È cassa, è proprio lì. Appa. E niente, comunque là, già va bene, poi diceva quello, se sono rose fioriranno, Giuseppe, oh vabbù, tu alle 5 devi essere operativo, però io voglio gioco un bel sacco, e mi pare che saluto a tutti, e me ne vado con i piedi nella culla là, ce la risentiamo alle prossime, ciao Antonio, ciao Giuseppe. Buona giornata per domani, Giuseppe. Niente, salutiamo Avela 2 e Azienda 1 là. Ce la sentiamo tutte le prossime. Ciao ciao. Ciao Mario, buone cose anche a te, buone niente, buona giornata anche a te per domani. Ci sentiamo presto. Ciao ciao Mario. Ciao Mario 1. Ciao, buonanotte Mario, se ne sentiamo le prossimine. Grazie, qui riprende Giuseppe Tornado per niente, anch'io mi ritiro pian pianino nelle mie camere perché anche oggi è stata una giornata abbastanza dura e con domani sono 3 giorni che si fanno 16 ore lavorative al giorno e niente, ci si sente alle prossime, auguro a tutti voi un proseguimento, un buon QRP e niente, ci si sente presto. Ciao Antonio, ciao Antenna 1, c'è K2 e niente, se mi senti ciao Vela 2 e Gianna, buon proseguimento a tutti. Grazie, regaliamo i saluti, se mi senti, a tutti. E altro audio voglio regaliamo, ti passo al K2 se poi troppo, se fanno saluto sopra. Ciao Mario. Ciao Giuseppe, saluto anche a Mario. Basta, sentite, di nuovo in acqua. Vuoi Luca? Beh, comunque di Antenna 1 ce n'era solo uno, Poi se c'è un altro Antenna 1, poi mi sa basta. Antenna 2, così è. Quali sono i nuovi nick che ci sono? Ma i nuovi nick, le 9 persone, dai. Ma allora stai dicendo di qua? Ho sentito che c'è qualcuno nuovo. Uno è K2 e l'altro è... ecco. Antenna 1 si fa, si chiama. Ma non è malaccato pesante, le due? Non lo so. No, siamo in barracchista. Comunque l'ultimo che è entrato adesso non era né K2, cioè io e né Antenna 1. Doveva essere qualche un altro. Io intendo qualcuno va vedente, è troppo basso. Sono K2, ma mi senti? Sì, avanti. Mi sentite, K2. K2, sesto di sesto. Poi ho acceso il lineare. Niente, stavo dicendo quello che è entrato prima di me, non so chi era, dice che è uscito dal luogo di Pasqua, è andato a lui. No, sta scherzando. Ma conoscete già? No, non c'è un problema, stava scherzando solo. Sì, no, me ricordo, ma tu sei più di me allora, cosa hai fatto? Scusa, stava là. Dai, vi saluto pure io, ciao, buonanotte. Grazie, ricambio i saluti. Avanti. Ma non ho capito, voi sentite, passo, se rispondete, forse. Passo, si dice.